fotti sono sempre io che foto. Piccole e grandi, la prendevo al 2 e la vendevo al 20. 500.000 euro in 5 assegni. Non abbiamo un capo, siamo capo di noi stessi. Ti hanno scavallato perché hai fatto troppo flexing e non hai mai aiutato chi ha bisogno, non hai mezzi. Ho fatto più soldi in droga che quelli fatti in concerti. Per quello che non mi sento rapper, noi siamo diversi. Sento Nino Nino, tieni d'occhio il tuo cavallino. Che ad incularti è sempre quello vicino, quello che hai chiamato fratellino, quello che ha insegnato a come stare nel giro. Poi dopo si gira, ti gira le spalle per i soldi, per la figa. Ho ancora più pelle, ancora più grossi di prima. Morirò da uomo, non mi importa di sta vita. Gang shit. Oh oh, sei pattugli sotto il mio blocco. Quello non la cocco, ma da tempo non la tocco. Puoi chiamarmi pure baby loco, tanto non mi fotti, sono sempre io che fotto. Sei pattugli sotto il mio blocco. Quello non la cocco, ma da tempo non la tocco. Chiamarmi pure baby loco, tanto non mi fotti, sono sempre io che foto. Tu parla il tamondo, so di la demonstrazione, con compagnie, puto. Puto. Je joue pas le bandit, j'fais pas le trait tant que j'suis en vie. Masqué, j'fais des tours en vie. Ça sent pas bon ces temps-ci. Dédicace à ceux qui m'ont pas lâché. J'reste un petit puto, un petit BDH. Scooter gang, cagoulé, arme à feu. Par jalousie, ça veut t'arracher, t'arracher. La vie, les petits sont calachés, calachés. Ta vie, faut pas la gâcher, la gâcher. Et de jour en jour, tu me déçois. Ouais, sur Pépé, tu m'as déçu. Tes accents, tout le monde y les voit. Ça te fait plaisir de nous cracher dessus. Et tant pis, moi, mon chemin, il est tracé. Et tant pis, si de ma vie, je dois t'effacer. Mon cœur il est glacé.